Buongiorno a tutti, compresa la mena marcia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. E sono contentissimo di essere qui e di far parte di questo gruppo. Sì, ho parlato col mister, c'è tanta voglia di far bene e soprattutto di dimostrare che comunque il Milan è una grandissima squadra e vogliamo partire subito da domenica per fare ottime prestazioni. Come ti ha convinto il dottor Cagliari? Col progetto? Non c'era nulla da convincere, il Milan è il Milan, quindi non c'è nulla da convincere. Non vedo l'ora di giocare, perché comunque l'emozione è tantissima e come qualsiasi giocatore voglio scendere in campo e disputare la partita. Ma la posizione poi la sceglierà il mister, ecco, è importantissima la voglia, la tanta voglia che ho di far bene e soprattutto la voglia che ha la squadra di dimostrare appunto il proprio valore. Giorgio De Luca, nostro autore, Fabio Cantadone, regia, e buon amici in redazione. C'è con me Giovanni Capuano oggi, come spesso il venerdì, e mi fa un grande piacere. Ciao Giovanni. Ciao Carlo, quindi voi siete della linea di quelli che Galliani, il citofono, il treno, c'era una volta il grande Milan. Una volta arrivavano in elicottero, oggi alla stazione centrale. Pierluigi Pardo, ciao. Come va? Benissimo. Hai visto il citofonista Galliani che va a prendere Mattia Destro? Dimentica, beh, sì. Come una fidanzata. Come una fidanzata, guarda. Dimenticando fidanzata. Solo un mazzo di fiori, si fa largo, sì. Tra la folla, guarda, non, guarda. Non trovando neanche il nome sul citofono. Però la notizia è che va con una valigetta vuota e torna con Mattia Destro. Sì, infatti. No, ma io... grande dirigente. La sostanza, il dato politico, come diciamo spesso, è quello, insomma, è una scelta chiaramente in qualche modo indotta anche dall'atteggiamento della Roma, che ha voluto, o comunque insomma che si è privata del giocatore senza particolari problemi, e sperando, credo, nel fatto che possa essere esercitato il diritto di riscatto, e forse alla fine se il vero capolavoro della trattativa da parte del Milan è il fatto che non c'è l'obbligo, ma c'è soltanto il diritto di riscatto, e mentre la Roma ha preso Dumbia, quindi insomma già ha trovato un sostituto, però ecco, certamente è una storia vincente, il Milan voleva quel giocatore lì e l'ha preso, ecco, poi se risolverà i problemi, questo non lo so, ho dei dubbi, se sarà così decisivo è tutto da dimostrare, però insomma dal punto di vista dell'operazione, ma il Milan su queste cose è bravo, eh? Cioè non è che il Milan non riesce a prendere quelli che vuole prendere, il problema è che qualche volta quelli che vuole prendere non sono sbagliati, quelli che ti fanno veramente la differenza magari non hai il budget per poterli prendere, è tutto lì, insomma. È bravo il Milan ed è bravo anche Galliani, cioè, va Pier. No, allora Galliani nelle relazioni secondo me è il numero uno, o comunque insomma è fra i primissimi, perché basta che pensi con... lui in questa campagna qui si è preso Cerci e lo voleva l'Inter al di là di tutto ed è riuscito a scipparglielo, ha preso Destro che comunque era un giocatore cercato, sì, e voluto. Destro che voleva anche l'Inter, perché appunto, oggi appunto. Poi tra le righe del retroscena della Gazzetta leggiamo che mentre con la sua valigetta vuota Galliani era lì a citofonare, a parlare poi con Destro e famiglia, Ausilio telefona, chiede aspetta, poi a giugno ne riparliamo, proposta ovviamente irricevibile, però che secondo me dimostra quanto Galliani sia stato bravo a cogliere l'attimo, cioè un'operazione così a luglio probabilmente il Milan non avrebbe potuto farla, Galliani, ma neanche a novembre. Queste cose... è bravissimo. Poi il punto è un punto invece più complessivo, tecnico, legato ai giocatori che servono, a quelli che servirebbero, a quelli che si riescono a comprare. Questo è chiaramente tutto un altro discorso. Ma tu credi l'abbia preso per Inzaghi il Milan destro, o in generale, considerato che Pazzini a giugno scade, ammesso che Pazzini fra due giorni sia ancora un giocatore del Milan, è un investimento per il futuro? Ma allora io credo la seconda, sì, anche se poi chiaramente il fatto che non ci sia l'obbligo di riscatto rende anche la possibilità che questa sia semplicemente una trattativa che va a coprire l'emergenza di 5 mesi. Io, il Milan ha comunque ceduto un attaccante, una prima punta come Torres, ne ha comprata un'altra. È chiaro che Torres giocava pochissimo, destro dovrà puntare a giocare di più, perché nel frattempo si è sviluppato questo paradosso che pare Menes e soltanto lui possa giocare da punta centrale, che è veramente un paradosso considerando le caratteristiche del giocatore, che nasce ovviamente come esterno attacco, al limite come trequartista, ma non come punta centrale. Quindi sto facendo grandi cose da questo punto di vista. Menes non ci sono dubbi, però la mia sensazione è che comunque è un giocatore che serve secondo me al Milan. Questo detto che io avrei insistito di più su Pazzini, sapete come la penso. Per me Pazzini comunque un giocatore di alto livello che, se trova un po' di continuità, può tornare a essere importante. Adesso poi dicono anche, poi adesso dicono anche, Pazzini in uscita potrebbe essere la Juventus, prima scelto Osvaldo. Giovinco dovrebbe traslocare in anticipo e andare in Canada, questa è una notizia di pochi minuti fa. La Juventus cerca ovviamente un attaccante, Osvaldo piace molto agli ex compagni, alla dirigenza e anche ai tifosi, ma c'è anche Pazzini in lista, sulla lista degli acquisti. Allora, ti posso dire l'ultima? Sì. La Roma ha trovato l'attaccante, sì. Stanno scambiando i documenti. Dumbia. 800 24 00 24, il numero verde. Avviso a tutti i convocati e naviganti: attenzione, da lunedì anche noi facciamo mercato, anche Radio 24 fa mercato. Abbiamo fatto un grande acquisto, Enrico Ruggeri, che tutti ben conoscete. Da lunedì alle 15.30, dalle 15.30 alle 16.30 ci sarà Enrico Ruggeri con il Falco e il Gabbiano. Ci diamo volentieri un po' di spazio, ma tanto noi siamo qui sempre un'ora e mezza tutti i giorni, di cose da dire ne abbiamo. Strade. Sul numero stiamo aspettando, perché devo avere l'approvazione da parte del mister, però no, ancora non ho scelto il numero, lo sceglierò nelle prossime ore. Tutti convocati. Strade in diretta. Buon pomeriggio, primo piano la situazione meteo, sono in atto forti nevicate sull'Autosole, è sconsigliato il transito sul tratto Valdarno-Monte San Savino in entrambe le direzioni, deboli nevicate invece e senza disagi la circolazione sulla 23 Udine-Tarvisio tra Ponte e Belconfine di Stato, sul raccordo Villesse-Gorizia della 4 ci sono code di 6 km per i mezzi pesanti fermati da Gradisca in direzione del confine con la Slovenia. Ci spostiamo sulla tangenziale di Bologna, qui per un incidente si resta in coda tra lo svincolo 7 Bologna Centro e lo svincolo 7 bis statale 64 per Ferrara in direzione della 14 Adriatica. Si rallenta sul tratto milanese della 4 dopo un incidente che ora si è risolto tra Sesto San Giovanni e Pero in direzione Torino. Rallentamenti anche sulla 3 Napoli-Salerno verso Salerno per un veicolo fermo a causa di un guasto tra Napoli via Marina e il bivio per l'Autosole. È tutto, torniamo tra mezz'ora. Convocati. Sicuramente merita tempo, si parla di un giovane, è normale che se quando è stato scelto Inzaghi si chiedeva a Inzaghi di essere un allenatore con esperienza, l'esperienza si accumula in tanti anni di lavoro, ma è normale. Questo Gattuso che ha parlato a lungo con Mediaset ve lo faremo sentire non solo di Milan, ma di molti argomenti. 800 24 00 24. Intanto il Chelsea va con una valigia non vuota ma piena di soldi a Firenze a prendersi Cuadrado, ci infila dentro pure Salah a occhio e croce. A me non sembra un brutto affare per la Fiorentina, anche ottimo, se ottimo, che dici? Ottimo, ma ottimo ragazzi, dai, ma di che stiamo a parlare? 31 milioni, no? Sì, 31-32, cosa del genere, più Salah per 6 mesi con stipendio pagato dal Chelsea, e beh, poi per un altro anno pagherà la Fiorentina. Di che stiamo parlando? No, eccezionale, per me è un affare eccezionale. Potenzialmente può avvicinarsi molto al rendimento di Cuadrado. Sì. E il Chelsea ti paga l'ingaggio, fai 31 milioni che poi a questo punto puoi investire almeno parzialmente in qualcos'altro. Secondo me paradossalmente per la Fiorentina potrebbe essere, cioè se le cose girano in un certo modo la Fiorentina può rilanciarsi, vediamo che succede nei prossimi due giorni, ma insomma se usa questi soldi in una maniera efficace, o se in alternativa Mario Gomez, che ultimamente ha lanciato qualche segnale di vita, dovesse tornare in maniera continua a far gol, per me la Fiorentina torna in corsa anche per il terzo posto. Stai parlando di un'altra punta? Sì. Beh, è arrivato Girardino, insomma, questo non è arrivato, Girardino, certo, è arrivato anche Diamanti, che è un altro giocatore che davanti spariglia le carte. Io, Cuadrado era uno dei giocatori uscito scontento dall'estate, perché per tutta l'estate aveva sognato il Barcellona e poi si era ritrovato a Firenze. L'altro era Vidal. Per dare la misura di quanto sia buono, secondo me, l'affare della Fiorentina, io dico, come provocazione, come paradosso, che se ci si potesse infilare nella macchina del tempo e tornare indietro, sia la Juventus che la Fiorentina avrebbero ceduto Vidal e Cuadrado ad agosto a quelle cifre lì. La Fiorentina ha avuto una seconda chance e quindi credo gli sia andata benissimo di poter incassare questi 30 e passa milioni. La Juve invece no. Alessandro da Firenze, che non ne pensa? Ma pronto, buongiorno innanzitutto. Buongiorno, dica. No, Alessandro da Firenze la pensa come tanti fiorentini, forse non tutti, ma tanti, che questa è l'ennesima prova che piano piano la famiglia della Valle cerca di fare cassa, metterà la freccia e andrà via da Firenze. Si vende un giocatore di levatura mondiale, per prenderne uno tra sei mesi non si appiccerà mai alla città. Noi saremo anche passionari a Firenze, ma beh, forse... Alessandro, che stia sei mesi lo vediamo, perché si parla di 18. Sì, tutti parlano di sei mesi, e ancora una volta la Fiorentina, come pesca un pezzo da 90 regolarmente la famiglia della Valle, dopo un anno, due anni lo manda a giro. Questa è la fine di Firenze, che non vedrà mai un successo, mai non vedrà mai niente all'orizzonte se si continua con questa politica. L'unico obiettivo di Della Valle a braccetto con Renzi era fare la cittadella dello sport, non ci sono riusciti per fare cassa ancora lì, e quindi per loro l'avventura Firenze è finita. Sì, sembra che Cuadrado in questi quattro mesi sia stato determinante per la Fiorentina, forse ho osservato male la squadra di Montella. Poi, per carità, Montella immagino che a Mourinho abbia detto per cortesia lasciamelo fino a giugno, poi ci sono logiche di mercato, ma mi è sembrato un giocatore fondamentalmente al di sotto del rendimento dell'anno scorso e dell'anno prima. Sì, o no? Resta che l'umore viola e nero oggi. Sì, però i tifosi non venderebbero mai nessuno. Ieri Mino Raiola sulla Gazzetta dello Sport ha spiegato benissimo che invece muovere i campioni è un vantaggio per tutti, per i campioni ma anche per i club che li muovono. L'importante poi è saper cosa fare coi soldi. Sì. Pierluigi, hai sentito? L'umore di Firenze è che è diverso da un nostro pensiero, che è un po' più freddo, no? Sì, no, ma sicuramente il nostro pensiero è più freddo ed è meno ovviamente condizionato dai sentimenti. È chiaro che una cessione è sempre vissuta come un momento di negatività, no? È certo, un momento di lutto, soprattutto quando parliamo di un giocatore come Cuadrado. Però la verità è che le grandi squadre, soprattutto in una fase come questa, nelle quali il calcio italiano non domina, le costruisci anche attraverso le cessioni, non soltanto attraverso gli acquisti. Cioè, se riesci a vendere molto bene, poi secondo me fai una grande operazione. È chiaro che qui la vera domanda è capire che farà la Fiorentina con questi 31 milioni. Se questi 31 milioni si ritiene Della Valle e produce Mocassini, cosa fra l'altro meritevole, perché Mocassini mi piacciono, però voglio dire, insomma, è chiaro che poi il tifoso della Fiorentina avrebbe tutti i diritti di sentirsi deluso. Per ora commentiamo la trattativa in uscita, secondo me è fatta molto bene, quindi commentare tecnicamente questa trattativa secondo me non può che strappare un applauso. Bisogna vedere se adesso la Fiorentina avrà voglia e forza di spendere questi soldi. La forza ce l'ha. Tra l'altro la clausola rescissoria, che in Italia viene usata quasi soltanto dalla Fiorentina, serve proprio a questo, cioè a tutelare il club che vende, perché un giocatore come Cuadrado, un po' scontento dal rendimento non eccezionale in questi mesi, tu rischiavi senza clausola di perderlo adesso, magari a giugno, dovendo anche fare lo sconto. Invece con la clausola un club si tutela. Il Chelsea è arrivato, ha coperto la clausola praticamente integrale, e Cuadrado va via. E la Fiorentina, secondo me, ha fatto bene, ci ha fatto un affare alla fine. Poi arriva Salah che lo voleva mezza Europa. Poi vediamo quanto resta. Poi sento parlare di Baselli, di Darmian, cioè di un piano di investimenti importante. Magari anche dello stesso Pazzini di ritorno, potrebbe essere un'altra idea, visto che con ogni probabilità andrà sul mercato. A proposito, vorrei oggi ha parlato Garcia, domani c'è uno snodo importantissimo per la Roma, che è una partita in casa con l'Empoli, che i tifosi della Roma metti i brividi per freschi ricordi di Coppa Italia, squadra molto complicata da affrontare. Ma Garcia ha parlato anche di Destro, che lui ha sempre detto: no, rimane con noi, conto sui suoi gol, conto su di lui, e oggi invece se l'è visto scappare via. Per il momento Mattia è andato via, approfitto di questo momento per dire che giocatore non cambio avviso, è un centravanti di talento, è un uomo di qualità, l'unica cosa è che lui voleva giocare di più e su questa cosa allora era più normale lasciarlo andare. Era più normale lasciarlo andare, poi Garcia dice, poi ve lo faccio anche sentire, che i tifosi non hanno sostenuto Destro, quindi punta un po' il dito sulla tifoseria. Certo che la Roma adesso sta prendendo un nuovo attaccante che ha un curriculum non straordinario. Però Dumbia è un giocatore che ha fatto bene anche in questi mesi. Sì. È un giocatore diverso da Destro, giusto Pierre? Non poi mai messo seguito più da vicino la Champions. Calcio, Salvo sì, però è un giocatore, mi sembra che quest'anno l'abbiamo avuto molto sott'occhio, perché il CSKA ha fatto il girone della Roma col Manchester e col Bayern Monaco. Mi sembra un giocatore intanto che serve a Garcia per le sue caratteristiche, e poi comunque la porta la vede, perché credo sia una decina di gol in mezza stagione. Sì, no, la porta la vede, però la domanda è quella, è contenuta nelle parole di Garcia, cioè Destro voleva giocare di più. Se guardiamo la media gol di Destro, abbiamo una media gol alta, quindi non è che volesse giocare di più perché fosse un megalomane, perché evidentemente pensava di meritarselo. Sì. Torniamo al discorso che facevamo ieri, un po' su come gioca Garcia dal punto di vista proprio delle caratteristiche tattiche, dall'altro ovviamente sulla forza e il carisma di Totti, che rende abbastanza difficile, numeri a mano, l'arrivo di altri grandissimi attaccanti alla Roma, che fanno fatica a esprimersi in una certa maniera. Questo mi sembra il dato abbastanza chiaro, abbastanza incontrovertibile. Il punto mi sembra assolutamente questo. Poi sì. Sicuramente Destro qualche occasione l'ha persa, qualche errore l'ha commesso, non ci sono dubbi da questo punto di vista, però secondo me alla fine è stato un po' sottovalutato, cioè per il contributo che ha dato, non dimentichiamoci il lunghissimo infortunio. E torniamo al colpo del Milan, 23 anni. Non dimentichiamo che la Roma perde anche Strootman per un mesetto che viene operato, ma poi potrebbe perdere Totti, sai perché? Sai perché? Perché va al Quirinale, ha beccato 5 voti ieri Totti ha beccato 5. Non ha l'età. Lo so, non ha l'età, però ha preso 5 voti. Se avesse 50 anni, dopo diamo i nostri voti. Andiamo in linea? Sì. Tommaso Labate. Serissimo, importantissimo, super inviato del Corriere della Sera. Non è serissimo, è importantissimo. Gli aggettivi sono due: vero e sincero. grande Pier, anche verticale abbastanza, verticale, ombre verticale. Anche... No, diciamo, salutiamo il direttore Brachino, il mio direttore, ancora il direttore di Vino News, quindi anche di Tiki Taka, che insomma insisteva molto sul concetto di fare un talk show divisivo, cioè quando uno fa il talk show ci deve essere un dibattito e ci deve essere un tema che divide, che sia bianco o nero, che porti il telespettatore a stare da una parte o dall'altra, mentre insomma io farei chiacchiere, dipendesse da me per tutta la vita, e quindi in questo mi ha aiutato molto, e quindi è un stesso, diciamo, divisivo, mentre vero e sincero, qual è l'origine di vero e sincero, signor Labate? Vero e sincero è l'origine attribuibile a un mio amico della Calabria, che si chiama Mario Crisarà, che saluto, e che lo soprannominiamo il proconsole dell'Eros. E su questo, diciamo, quando siamo in fascia protetta vi racconterò proprio le gesta di questo Mario. Senti Tommaso, proconsole. Totti poi votazioni successive, voti non ne ha presi, è stata la Ferilli, c'è stata Barbara D'Urso, ci sono state altre invenzioni. È vero che c'è stato Coman? Sì, c'è stato un paio, due. Due voti per Coman. Pardo zero? Sono molto deluso. Pardo zero. Però ieri è stata una espressione molto stizzita del presidente Boldrini, nel momento in cui hanno passato la scheda Totti, ci ha pensato un attimo, ha detto non ha 50 anni, mentre ha applicato il regolamento alla lettera, mentre in altre epoche si leggevano tutti i voti. Io ricordo per esempio dei voti che arrivavano a molti giornalisti nelle tornate precedenti, anche under 50, perché ricordiamo che per essere Presidente della Repubblica servono 50 anni, e venivano letti sempre. Ieri invece con la Boldrini, con un moto diciamo quasi di stizza, ha evitato che si leggessero i voti. Di scusa, io pensavo che poi alla fine, chi ha detto che è quel Francesco Totti lì? Magari c'è un Francesco Totti omonimo che ha più di 50 anni. Assolutamente. Il regolamento alla mano avrebbe dovuto leggerlo. Sì. Esatto. Si è rifiutata la signora Boldrini. Oggi come va? Oggi va benissimo, si procede verso è più vicino l'arrivo di un nero azzurro al Quirinale. Nero azzurro che risponde al nome di Sergio Mattarella. Ah, molto tifoso? Molto, molto, una parola grossa per uno diciamo che ha fatto dell'understatement, certo, la sua cifra di vita, del silenzio, del rigore, dell'essere taciturno, quindi molto, è una parola un po' grande, però ha simpatie nitidamente e marcatamente nerazzurre. Ma è rimasto all'Inter di Bersellini, visto che è il ritorno degli anni 70, o si è evoluto? Un po' li invidiamo tutti a Tiki-Taka, quindi non so, Presidente. Magari l'Inter di Bersellini aveva elementi di estro di follia, penso a Beccalossi che secondo me, di fronte al quale Mattarella avrebbe diciamo emanato un decreto di scioglimento, però molto austera come figura, magari anche un bene. Grazie Tommaso, buon lavoro, divertiti. Ciao. Il signor Pardo, ma noi a dire la verità, rovistando il web, un candidato ce serio, l'abbiamo, sì, ce l'abbiamo. Dopo ve lo facciamo sentire, poi c'è la borsa. Salve, sono Massimo Ferrero, quello vero. Un augurio speciale al nostro grande presidente Napolitano, che tutti i giorni, con passione e la sua grande energia, ci regala fiducia a questa Italia mia. Ma vaffanculo, va. Me l'ho giocato Magalli. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Finita fuori! Finita 5-2! Finita! Finita! Vai, sì! E ieri alla fine dell'allenamento della Juventus, Pogba e Allegri si sono messi a giocare a fare gol nelle porticine piccole. È finita, 5-2, ma non per Pogba. No, ma nessuno ha mai detto allenatore. Che Allegri non avesse un gran piede. Allegri, piede straordinario. Allora, Pierluigi Pardo, ricominciamo dagli ascoltatori. Ci sei, sì? Sì, ci sono. Volevo dirvi che Ambrosini tutti i giorni ci ascolta e ascolta ormai. Arrivo! La messa come suoneria, no? Ho visto ieri sera. Meravigliosa quella. È spiccato, per ora non è arrabbiato. Non è arrabbiato. Poi, se si arrabbia, poi ce lo fa sapere. No, intanto prima Cavorra mi diceva che stamattina alla tornata di votazioni c'era il Parlamento distratto da Djokovic Wawrinka, semifinale degli Australian Open. Tra l'altro è stata lunga, alla fine ha vinto Novak Djokovic in 5-7, 7-6, 3-6, 6-4, 4-6, 6-0. Andrà in finale con Murray. Comunque Ferrero classe 1951, quindi 50 anni compiuti, può fare il presidente. Anche Sabrina Ferilli. Classe 64. Anche Gagliani, Anche pensa Gagliani. Che Berlusconi risolverebbe due problemi in uno. Anche Lamberto Boranga che gioca ancora. Che è il nostro prima candidato, Pierre, 72 anni, Lamberto Boranga, se proprio vogliono un candidato che viene dal mondo del calcio, eccolo lì. Ci può stare. Gianrico Vicenza, buongiorno. Dica. Grazie di avermi chiamato. Grazie. Mi sentite? Sì, dica. Allora, volevo condividere con voi due mie idee. La prima è fastidiosissimo vedere le partite la domenica con questi giocatori che ancora continuano a fare simulazioni per tentare di fregare gli arbitri. Ma le società, considerando il momento che la nostra Italia sta passando, ma non gliela possono insegnare un po' di etica? Dire che socialmente il calcio ha un'espressione molto importante verso i giovani, ed è, credetemi, è fastidioso vedere questi giocatori che appena toccati saltano, urlano. Sì. Questa è la prima cosa, il primo aspetto. vi chiedo scusa, sto guidando, poi magari sento le vostre risposte per telefono. La seconda è Mattia Destro. Io sono uno sportivo tifoso romanista, ma questo ragazzo è un ottimo centravanti per squadre di media classifica. Noi romanisti, da Manfredini, Taccola, povero Taccola, Peirò, Feller, Battistuta, Pruzzo, ma ne abbiamo vista di gente. Voi mi dovete dire, no? Un centravanti, gran colpo di testa, o grande scatto, o due piedi straordinari, o una tecnica sopraffina, Non ne vedo tanti in giro nel povero campionato italiano, tanti che siano meglio di Destro in questo momento, in tutta onestà. Comunque, prima di Natale, a Destro, questa è notizia assolutamente vera, si era interessato anche l'Arsenal. Cioè, non stiamo parlando di un giocatore comunque normale che deve dimostrare tutto. È un ragazzo di 23 anni nel giro delle nazionali che senza il pugno da storia sarebbe andato a fare il mondiale, perché va detto anche questo, e magari avrebbe scritto una storia diversa anche per sé. È uno che segna un gol ogni partita e mezza, è un giocatore d'aria, è tecnico. Io non riesco a capire perché non si faccia una valutazione serena su Mattia Destro, compresi i tifosi della Roma. Forse ha ragione anche Garcia, cioè Destro va lontano da Roma è entrato nel cuore dei tifosi della Roma. Non si capisce 29 gol in 68 partite, non stiamo a parlare. Mica male, mica male. Gli attaccanti si misurano anche così, con l'almanacco Panini. Non devono fare chissà che cosa che non sia misurabile, devono fare sicuramente, gol. Sicuramente, ma torniamo al discorso che abbiamo fatto ieri. Cioè, sicuramente, da un lato, lui ha fallito alcune prove. È chiaro che le partite non sono tutte uguali. Ci sono delle partite, Destro ha fatto molti gol, soprattutto recentemente contro squadre piccole, partite abbastanza facili, questo va detto. È anche vero che questo è successo perché Garcia le occasioni gliele offriva soprattutto in quelle partite lì, e si fidava meno invece delle partite top, dove lui in qualche circostanza ha sbagliato, perché poi c'è anche la doppietta contro l'Inter in semifinale di Coppa Italia 2 anni fa, insomma ci sono anche delle prove invece a suo favore. E detto questo, sicuramente siamo di fronte, c'è stato un lungo infortunio, ribadisco, io credo che la Roma potrebbe pentirsi di questa scelta. Detto questo, è un prestito con diritto di riscatto. È anche vero che la Roma, se lo vende a giugno, a luglio, 16, lo vende a 16 milioni, lo vende a 16, quindi praticamente l'investimento sarà ripagato, altrimenti gli torna a casa. In questo momento però non era funzionale il progetto, questo si era capito, c'era qualche ma glielo si leggeva anche abbastanza in faccia. Sentiamo cosa ne pensa Serse Cosmi. Piero, certo, buongiorno Serse. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Il signor Cosmi, come va? Bene, bene. Senti, bene, Destro, bene, cambierà bene. Il Milan? Tatticamente probabilmente sì. Con Destro? Sì. Ma è che credo che cambi tantissimo. Insomma, il Milan è alla ricerca da qualche anno, dopo Inzaghi, diciamo così, di un attaccante che abbia certe caratteristiche. Insomma, forse Pazzini era l'attaccante con quelle caratteristiche, però molto probabilmente non gode della fiducia, diciamo così, e allora credo che Destro vada a riempire in questo momento, non va a sostituire nessuno in realtà, perché Milan gioca senza attaccanti di ruolo. Ma adesso magari cambierà qualcosa, no? Sì, beh, è chiaro, la posizione di Menez era diversa da quella che è stata in questa fase di campionato, insomma, che poi credo che alla fine sia anche la più congeniale. È vero che Menez ha ripagato con parecchi gol, perché 10 gol sono tanti per un giocatore delle sue caratteristiche, però io credo che con un attaccante di ruolo Menez magari farà qualche gol in meno, però sarà più utile negli assist, anche nel creare azioni offensive. Ti incuriosisce, Serse, che si pensi di tornare al 4-4-2, che è un modulo un po' desueto in questo momento? O si difende a 3 ma sta passando di moda, o si fa il 4-2-3-1, l'albero di Natale. Il 4-4-2 puro credo si faccia pochissimo. Insomma, io una volta la definì come la puttana dei sistemi di gioco, insomma, voglio dire, perché Ed è perfetta la definizione, eh? Ed è perfetta la definizione. È un rifugio, ovviamente, con 4-4-2 si sono costruiti anche cicli importanti di squadre straordinarie, insomma, a pensare a quella di Sacchi, ma di altre, quindi non è. È un sistema di gioco che nei momenti di grande difficoltà agli allenatori serve per, diciamo così, per ricompattare, per far sì che tutto sia un pochino meno complicato, un po' più semplice, no? Poi sapete benissimo che quello che conta in assoluto sono gli attori di questi sistemi di gioco. Sì, è chiaro. Comunque a me 4-4-2 piace, Pier. Ma sai, non è che i moduli, adesso poi Serse chiaramente è molto più esperto di me, non è che i moduli siano giusti o sbagliati in assoluto, hanno pro e contro. Il 4-4-2 sicuramente grande equilibrio, devi avere i giocatori per il 4-4-2, cioè mi sembra che il tema chiave sia capire se il Milan ha due esterni offensivi, cioè se il 4-4-2 lo fai con Giggs, che fai cross, Giggs di inizio carriera è abbastanza semplice, no? Ce li ha questi esterni, secondo te hai giocatori congeniali per fare il 4-4-2? 4-4-2 teoricamente ci vogliono, credo, due esterni di grande qualità, una prima punta e una seconda punta abbastanza diverse dal punto di vista fisico, con diciamo il più piccolo che si abbassa e viene quasi a fare il trequartista. E potrebbe averle, come Nez destro. Sì, come Nez destro potrebbe averle, no, sono più gli esterni secondo me sui quali... Ma gli esterni, c'è Cerci, vabbè, che è nato in gruppo, insomma, anche se diciamo così la stagione migliore l'ha avuta da seconda punta con Ventura due anni l'anno scorso. Cerci è da 4-4-2, cioè Cerci secondo me, io veramente ci capisco fino a un certo punto. Ha giocato, nasce come proprio esterno il 4-2-4, diciamo così, o 4-4-2, insomma lui veniva definito un 4-2-4 perché lui ha un'interpretazione particolarmente offensiva, insomma, voglio dire, allora per Cerci in assoluto nasce con quel ruolo e lo può interpretare benissimo. Ecco, però non è che con Cerci tu sbilanci il 4-4-2 e quindi a quel punto devi chiedere ai due intermedi di centrocampo, ai due centrocampisti centrali un contributo più che altro di legna più che di qualità, e quindi già è Montolivo... Chiaro, in un 4-2-4 o 4-4-2, chiamiamolo così, più semplicemente con esterni offensivi, e i due mediani dovrebbero essere completi, nel senso che siano in grado di organizzare gioco, di recuperare palle e di muoversi sugli esterni, perché il problema del 4-4-2 è quando sono alti i due esterni restano tagliati fuori, è normale che chi si muove in quella zona è il mediano che dritta lateralmente, quindi devono avere queste caratteristiche, però insomma io credo che Milan per caratteristiche ha quei giocatori, bisogna vedere se ce l'ha per qualità, perché le caratteristiche è un conto, le qualità sono un altro. Vi chiedo, ragazzi, un attimo di pazienza, un secondo di traffico, poi torniamo. Uno, massimo due persone che prendono decisioni. Oggi mi sembra che le decisioni vengano prese da molte più teste. Penso che sia i calciatori, sia l'ambiente lo sente questo. E penso che bisogna migliorare su questo, su questa problematica qua. Convocati. Con una cosa, Serse Cosmi, da parte mia, poi vi lascio a Pardo e a Capuano. A Firenze sono un po' arrabbiati per la partenza di Cuadrado. Secondo noi, ne abbiamo ragionato prima, il prezzo è giusto e non mi sembra un cattivo affare, considerato che arriva anche Salah, Serse. No, è tutto fisiologico, insomma, come quando, se andando via le Lecce, diciamo così, tramite Udine, via Udine e andò a Firenze, io dissi che era quella la destinazione giusta, diciamo il livello, perché lui aveva bisogno in quel momento di non di una top, ma di una squadra ovviamente con delle ambizioni, con di assoluto livello come la Fiorentina, però che gli potesse far capire a lui e alla Fiorentina stessa quali potessero essere le sue potenzialità, che ovviamente ha espresso alla stragrande nelle stagioni precedenti. Quest'anno, dopo il tram tram estivo, insomma, con la possibilità di andare a Barcellona o in altre squadre, era normale che il giocatore perdesse anche parzialmente, diciamo così, quella forza psicologica che aveva avuto nelle due passate. Però ecco, io credo che per il bene della Fiorentina, per il bene del giocatore, insomma, chiaro che i tifosi si erano giustamente affezionati a un giocatore che ha fatto quasi sempre la differenza, insomma, voglio dire, però nel calcio credo che bisogna avere anche la capacità di capire quando è il momento di lanciarsi e soprattutto quando è il momento per poter avere dei vantaggi tutti e due. Piero, vuoi chiedere ancora qualcosa su Sesto Cosmi? No, quello che dico è solo legato a Totti, cioè sul discorso che facevamo prima, no? C'è questa scuola di pensiero che dice che a Roma, dopo Batistuta, si sia faticato ad avere dei grandissimi attaccanti, proprio perché chiaramente Totti è un giocatore talmente forte, talmente carismatico, talmente straordinario anche dal punto di vista simbolico, che insomma lì è un po' ingombrante, e quindi mi ricollego un po' al discorso di Destro. Tu che idea ti sei fatto da questo punto di vista? O è più un discorso tattico di Garcia che non vuole una prima punta, adesso sta arrivando Dumbia, non vuole una prima punta troppo statica, troppo d'area di rigore? Ma tutte e due, però lasciatemi dire, cioè qui stiamo parlando di Battistuta e ditemi voi il dopo Battistuta, non li nomino, però gli attaccati così da Roma, insomma, voglio dire, ha giocato anche Kerry nella Roma, voglio dire, quindi con tutto il rispetto, per carità, ha avuto degli ottimi centravanti, voglio dire, ma se oggi ci fosse Battistuta giocherebbe Totti e Battistuta. Non me ne voglia nessun altro, insomma, voglio dire, quindi quella grande idiozia di dire che Totti ha condizionato l'esplosione dei vari attaccanti, Destro compreso, secondo me è un'idiozia, cioè, o meglio, è una verità spumata, solo parziale, dai. Ma sì, ma quella è una giustificazione perché per giocare nella Roma. E questo, cioè, non è che lo dico io, insomma, lo dicono i fatti. Se sei forte, giochi. Se sei forte e sei in concorrenza con Totti, giochi poco. Se sei normale, non giochi mai. Semplicissima. Se sei normale, non giochi mai. Meraviglioso. Grazie. Se ti chiami Destro, vai al Milan. Se ti chiami Destro. No, ma io non facevo riferimento a Destro. No. L'ho allenato per un mese, quindi sono stato anche quello che lo consigliavo di andare alla Roma, perché pensavo, come in parte, che fosse la sua tappa naturale per poter crescere. Poi, ripeto, ci sono state altre situazioni, però non, cioè, che adesso si voglia dare la colpa a Totti della mancata esplosione, certo. Non di Destro, ma di tutti i centravanti che sono transitati nella Roma, è ridicolo, insomma. Vabbè, comunque, se io mi auguro che giochi fino a 45 anni Totti, poi quello sarà un problema per gli altri. Poi diventa Presidente della Repubblica. Il prossimo diventa Presidente della Repubblica, che avrà l'età. Grazie, Serse. Ciao. Grazie a voi. Ciao Pierluigi, ciao Serse. Allora facciamo Pierluigi, andiamo di corso con qualche altro ascoltatore, sono lì da un po'. Lorenzo Trento. Buongiorno, grazie per avermi fatto partecipare a tutti i candidati. Direi bravo. Che si potrebbe chiamare così, insomma. Bravo. Perché non Pardo? Perché non Genta? Perché? Dire. Perché non hanno l'età. Pardo non ha l'età. Io ho 90 anni, non. Altri costituenti. Sentite, io sono juventino fino al midollo e sì. Penso che se arrivasse un'offerta generosa per Pogba e la Juventus l'accettasse, non vedrei nulla di male. In fondo, si vendette Zidane per prendere Nedved, Ibrahimovic, e soltanto il presidente dello sponsor dell'Inter ci privò di quegli scudetti vinti in maniera sacrosanta e legittima sul campo. Quindi lo accetterei con la consapevolezza che Marotta, che finora secondo me ha lavorato benissimo, al netto di Anelka, ha lavorato benissimo, perché ha portato Coman, Pogba, Pereira, che è un signor giocatore, Asamoah. Devo dire, mi fido ciecamente di lui. Sì, quindi per la cifra giusta Pogba se ne può andare. Sì, decisamente. Fa anche rima. Fa rima, direi che è proprio così. In linea di massima credo che insomma la dimensione sia questa, cioè se c'è un'offerta di quelle che non può rifiutare, così come è giusto il caso di Cuadrado, lì si ragiona su una scala molto superiore, però in linea di massima credo che molti tifosi della Juventus la pensino così, al di là dei 2 euro di autotassazione. Sì, ma che Pogba non sia destinato ad invecchiare nella Juventus mi sembra sia scritto dal momento in cui è arrivato. Poi io credo che la sua esplosione renderà tutto più attuale a giugno, magari si poteva aspettare uno o due anni. Cristiano Ronaldo, eh? Ecco, però è un passaggio, non finisce il calcio della Juventus una volta venduto Pogba. Manchester United ha venduto Cristiano. E non è nemmeno vero che siamo solo noi. Pier giustamente fa l'esempio del Manchester United, tutti i club, se arriva l'offerta giusta per chiudere una pagina, aprirne un'altra, ci riflettono. Tanto oggi ho letto una roba pazzesca, Manchester United che potrebbe darne 150 a Real Madrid per Bale. Non ci credo nemmeno se li vedo, perché anche se il Manchester United è l'unica squadra insieme al Real Madrid che può fare un'operazione di queste ma senza uscire dai parametri della fair play finanziaria. Secondo me non è nei primi 5 giocatori del mondo, secondo me attualmente Bale, almeno secondo a mio parere. Gaetano Cosenza, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie. Io volevo dire stesso al Milan, sono molto scettico sull'operazione del Milan, perché cioè non per il valore del giocatore, perché Destro ha un futuro e Torres ha un passato, però, però Destro non fa reparto da solo, non c'è almeno io non vedo un Mi sta dicendo che Destro non ha Ibrahimovic? Esatto, cioè non c'è un centrocampista nel Milan che lo mandi in porta. Se fossi stato io Cingagliani avrei preso più un centrocampista di qualità per un centrocampo che è mediocre. Però possiamo ribaltare per un momento la prospettiva, cioè io non credo che il Milan prenda Destro per Inzaghi. 18 partite alla fine della stagione, una stagione che comunque sia chiuderà male. Però può essere un investimento per il futuro. A luglio il Milan non se lo sarebbe potuto permettere, fino a novembre del 2014 idem. Qualunque sia l'allenatore prossimo sulla panchina del Milan, ha bisogno di un 9 che il Milan non avrà più in rosa se non Destro. Ditemi quale allenatore in Italia gioca col falso 9, a parte sto tentativo di Inzaghi? No, nessuno. Ma questo è chiaro, ma comunque è un investimento per il futuro e non ci sono discussioni su questo. Pierluigi, per chiudere, per la Juventus, Osvaldo Pazzini. Ma io credo che la Juve, ti posso dire banalmente, se va via Giovinco deve prendere un quinto attaccante. E quindi cambia poco. E alla fine, francamente, Osvaldo ha una situazione compromessa lì e deve partire per forza. Ma Pazzini, voglio dire, fra rimanere qui e andare a fare il quinto alla Juve, rischia di cambiare poco. Per me, io ribadisco, Pazzini meriterebbe di giocare. E mi sembra abbastanza assurdo il poco spazio che ha avuto. E ogni giorno mi pare che il Milan abbia cambiato strategia, evidentemente non credo in lui, quindi sicuramente se c'è la possibilità la Juve magari ci va. Però potrebbe anche stare lì fino a scadenza e poi comunque la squadra la trova. Potrebbe essere un giocatore importante per il Torino. Certo. Sentiamo domani, Pier. Convocati. Tutti convocati. Obviously, there is a change in color for me, so it's a new experience. But I think the car looks beautiful. To see how it comes together is always something special. Every year when there's a new car and you see the first bits and then finally the final car all assembled, I think it's something special. So I can't wait to go on track and see how it feels. È una Ferrari veramente sexy. Non vogliamo mettere le mani avanti, siamo più realisti del re. Ci siamo trovati un certo tipo di situazione, la macchina non si costruisce in 3 secondi, ce l'ha già, alcune modifiche sostanziali sono state fatte in base ai tempi che erano comunque molto molto ristretti, qualcosa si sta muovendo, secondo me si sta muovendo nella direzione giusta, detto ciò confermo assolutamente quello che ho detto. Il rumore è questo, le immagini le potete vedere. Leo Turrini, 5 minuti con noi, giusto per parlare di questa Ferrari molto sexy. No, prima parliamo del traffico che finalmente si è sbloccato sulla Pero Cormano. Perché? Non te l'aspettavi, perché grazie alla SF15T Raikkonen si è mosso. Quindi adesso il traffico scorre tutto bene anche nella zona intorno a Fiorano. I problemi rischiano di essere a Gerez, dove domenica iniziano i test, sì. E lì potrebbe cascare non l'asino ma il cavallino, insomma capiremo presto cosa può garantire questa nuova rossa. Comunque, rossa, devo dirti... è rossonera, non sono colori granché di moda, è alla pancia nera. Sì, ma lascia stare che tu c'hai sempre in testa il Milan. No, che dire... vuol dire? Cioè, no, non sono colori di moda. Fatto, eh? È un dato di fatto. Voi avete destro e noi abbiamo Vettel che ci dà il destro di dire che torna di moda la combinazione tra tagliatelle e birra, sì. Come all'epoca di Schumi, capito? Una volta ha funzionato, gli esperti in gastronomia hanno qualche perplessità, ma però nell'automobilismo la tagliatella con le birra, insomma, no? Funziona. Traffico non c'è più, Raikkonen sta viaggiando. Lo stesso. Se poi parliamo di pura estetica, so, per quanto possa essere sexy una macchina, io trovo sexy altre cose, però a me McLaren e Williams sembrano ancora più sexy della Ferrari, posso dirti. Ma perché tu ti butti sempre sull'Arby. Effettivamente se uno guarda il retrotreno della McLaren Honda, sembra, come dire, più attizzante, innovativo, sì, rispetto, sì, a quello della Ferrari. Però insomma poi l'esito del cronometro sarà quello fondamentale. Volevo dire però che il mio idolo Kimi è diventato papà, quindi sì, diciamo che questa è una settimana proprio da fiocco rosa, rosso per tutta, hai capito, la nuova creatura meccanica, il bambino, tutte queste cose. Il problema è questo, che il vecchio Drake diceva un pilota diventando padre perde un secondo al giro. Allora nel 2014 forse Raikkonen ha avuto due gemelli a nostra insaputa, perché sulla Piero Cormano andava fianissimo. Senti, prima di salutarti, che so che io però ho una domanda da fare. Dai. Leo, no, io ho sott'occhio una foto, un montaggio di un Reggio Calabria, c'è la McLaren di Alonso Ferma, sì, di un collega spagnolo sulla Salerno Reggio Calabria, sì. Che ha messo insieme i musi, i nasi e mi sembra che la Ferrari sia diversa da tutte le altre. Ora, ultimamente non c'era andata benissimo quando avevamo tentato la strada di fare gli innovativi, quelli che il mondo andava a destra e noi andavamo a sinistra. Non è che dobbiamo aspettarci qualcosa di male anche quest'anno? Il naso si può sempre rifare, eh. Però tenete presente sia sulla Piero Cormano che sulla Salerno Reggio Calabria che la Ferrari viene dal peggiore anno delle ultime 25. Sì, peggio non si può fare, no? Bravo. Quindi siamo già in vantaggio. Dopodiché si spera di vincere almeno una nell'arco del campionato, perché come avete fatto sentire prima arriva bene, come ha detto appunto Mr. Rival, è opportuno essere realisti. Io non so se Mattarella ce la farà domani, spero che ce la faccia Vettel a vincere almeno un gran premio in questa stagione, forse uno anche Raikkonen, che è ripartito su, cioè quel Ducato rosso che vedete, tra l'altro Corbano, è lui. L'ultima lui. Cosa che ti volevo dire è che proprio Kimi ha detto che gli piace già di più questa macchina perché la posizione nell'abitacolo gli sembra un po' più comoda, da notizia intanto che ci entra. No, ma però guarda che lui è sempre stato molto tirato, molto magro, non credo. È vero che ama la vodka, il però santo dire bevitore. Che fosse, dire che il santo bevitore fosse il sovrappeso, no. Comunque, adesso siamo qui che arriviamo. Domenica avremo le prime indicazioni. Se subito Vettel contro Alonso a Jerez, la prima giornata di test, c'è Robert per la Mercedes, Raikkonen che va un po' più piano, deve davvero Cormano raggiungere Jerez, un viaggio lungo, salirà sulla macchina solo martedì. Grazie Leo, ci sentiamo presto. Un abbraccio ragazzi. Ciao, buongiorno. Ti vogliamo bene, Leo Turrini. Mi manca la dichiarazione di Montezemolo dell'anno scorso. Qual che è? Quando disse il giorno della presentazione, video, perché io mi sono stufato di arrivare secondo. A parte che era arrivato terzo l'anno prima, cioè, ma questo è un dettaglio, diciamo. No? Ha mantenuto le intenzioni. Come si bella cavalla sto camello con vino, l'altra con la coda, bandi un archile. Italia non scorre Ferrero, ha detto che la sua vita è la sua vita. E non mi accavalava la sua vita. Ma chi ti ha fatto fa? Allora, è vero questa storia di barzellette? Che barzellette erano? Sì, sì, è vero, perché io ho fatto tre film a Palermo e gli ho parlato un po' che la palermatano, se ne ho messa, uno a uno, va bene, ci sta, eh. Ah, così Massimo Ferrero, Maligaia, Pagdadi, Saino. Salat Nig Filipino Mahal Ko Kaigong Lahat Forza Sampdoria. Il presidente più poliglotta che c'è, ieri ha risposto a una domanda in arabo. In arabo. L'altro ieri era sulla prima pagina di un giornale greco, però non ho capito cosa c'era scritto. Era qualcosa che aveva a che fare con l'eleganza. C'era la sua foto con la sciarpona della Sampdoria. Capisco. Su un giornale greco ha rilasciato un'intervista, imperfetto greco. Intanto, Antico. Si è perfettamente calato nel clima di questa Sampdoria multietnica e multicolore, dicendo che Moratti è come Gesù Cristo. La cosa più divertente è capire se gioca domenica, perché lui ha detto una che dichiarazione pronto, sobria. Sì, vuole giocare. Poi in panchina c'è Mihajlovic, che non è uno tenerissimo. No, lui non riesce a calarsi nel clima della Sampdoria multietnica e multicolore di questo tempo, anche se parla mille lingue, è un uomo di grande intelligenza, oltre che con due palle così. Adamo Verona, buongiorno. Non c'è Stefano da Fermo, buongiorno. Massimo da Bologna, buongiorno. Buongiorno. 800 24 0024 a tutti quanti, buongiorno. Stefano, mi dica. Buongiorno. Buongiorno. Niente, ero partito per fare un tipo di intervento, ma è andato da un altro. Dopo aver sentito l'artista del calcio nuovo, Ferrero, ci ha spiazzato tutti. Questo è un po' riclasse a tutti gli effetti, voglio dire, penso che mancasse nel calcio, nel panorama calcistico. E al di là di questa premessa, come tutti, vorrei dire qualcosa sul Milan, perché in fondo siamo tutti allenatori e quindi io credo che il Milan, al di là di destro, già avrebbe dovuto usare un altro schema tattico con due centrocampisti centrali, perché De Jong da solo, quando si abbassa, diventa un quinto difensore e nelle ripartenze è lento quanto una talpa. Motolivo da solo è un pesce fuor d'acqua, perché non sa forse né costruire e nemmeno distruggere. Invece a fianco a un centrocampista di un certo ritmo, peso e anche personalità, perché forse dopo Mexes, per quanto se ne dice, l'unico che ha le palle, perché il resto sono tutti giocatori che hanno grandi o buone caratteristiche tecniche, ma poca personalità. Sì. Quindi con la linea dei due centrocampisti centrali, gli esterni deve utilizzare gente che corre a discapito della qualità tecnica, perché secondo me Shaarawy, grande campione o grande Shaarawy tanto non c'è, perché si è fatto male, ma dicono che il Milan qualcos'altro farà. In linea di massima condivido l'analisi. Anche a me De Jong davanti alla difesa a fare ripartire l'azione non piace, è uno che fa passaggi laterali di due metri e non Gnafa, sì, ma il 4-4-2 risolve anche questo problema, perché consente di mettere in mezzo Montolivo e anche un altro di rottura, perché evidentemente la difesa del Milan in questo momento non regge Montolivo e basta a schermo davanti. Col 4-4-2 tu risolvi, l'ha detto prima Serse usando un eufemismo, un giro di parole, cioè il 4-4-2 è il modulo più semplice, quello che occupa meglio lo spazio e quello che dà in fretta più certezze, perché gli esterni sono comunque coperti da un compagno, perché hai due centrali di metà campo, una punta grossa, alta, punto di riferimento, e una un po' più mobile, è tutto molto più semplice. Certo, infatti nei momenti di difficoltà è giusto cercare Bisogna arrivare a giugno, poi dopo si costruirà un altro Milan. In un modo o nell'altro a giugno ci si arriva, vediamo come. Poi l'unica cosa su cui non sono d'accordo è che Mexes sia l'unico alle palle, perché insomma Mexes è uno cui certe volte va in tilt il cervello più che altro. Ci può stare. Mica tanto, mio caro. Massimo Bologna, buongiorno. Buongiorno. Io volevo dire una cosa. Secondo me un allenatore deve, più che il modulo, deve guardare nell'organico chi ha, no? Se io ho un'ottima ala sinistra che salta l'uomo, giocherò più sulla sinistra. Mi ricordo Conte quando si trovò Vidal in panchina e fece presto a cambiare modulo, no? Inserendo un centrocampista in più a discapito dei vari Elia e Stigarribia sulle fasce. Sì. A proposito di Inzaghi, cioè, guardando il Milan, no? Con quei centrocampisti non geneticamente portati alla costruzione, perché è così. Cioè, io lo vedo con quattro difensori bloccati, due frangiflutti davanti alla difesa, quelli li trova, e poi davanti giocare col 4-2-3-1, in modo che tra El Shaarawy, Cerci, destro Buonaventura, sì, me, ma ci ha provato. Non è che non ci ha provato. L'ho sempre visto col 4-3-3, col falso 9. Il problema è che i due davanti alla difesa, se non hai poi uno che è capace di fare girare il pallone, diventa un problema farlo arrivare a quelli davanti. E comunque questa è una formazione che tu puoi fare quando, ad esempio, i due esterni d'attacco ti garantiscono un certo lavoro difensivo anche in fase di non possesso palla. E evidentemente Onda, Cerci, il Sharawi quando c'è stato, lo stesso Bonaventura, sono solo in parte giocatori che fanno questo tipo di lavoro. Mi sembra, ripeto, che Inzaghi abbia perso il filo e il 4-4-2 sia il modo più semplice per cominciare a mettere le pezze. Quando sei in difficoltà, comunque la ricerca della semplicità resta comunque l'idea migliore. Intanto hai visto, hai sentito il signor Mino Raiola che si è ritirato purtroppo dalla corsa contro Blatter, perché ha detto non ce la faccio. Sì, ha corso per una settimana. Sia lui che Gino Lando. Noi venerdì scorso eravamo qui a esultare come pazzi, adesso ci resta ad aprire soltanto la campagna. Ci resta soltanto Figo. Luis Figo. E allora proviamo con Luis Figo. Con Luis Figo. Francesco Roma, buongiorno. Comunque Mino Raiola ha detto che è tornato a parlare della fusione Milan-Inter. Sì, detto, quella è l'unica strada percorribile. Se vogliamo far sparire il calcio da Milano è perfetto. Sì, ma poi dobbiamo anche dire un'altra cosa. Cioè che un anno fa, quando l'aveva lanciata la prima volta, Inter e Milan insieme almeno avevano un senso a livello economico in Europa. Erano terze. Adesso. Quest'anno sono settime. Retrocederanno ancora. No, poi io sono anche per la fusione Roma-Lazio. No, se devono farla, che si muovano. Perché fra un po', anche fondendo Inter e Milan, non riusciranno al massimo a garantirsi l'Europa. Io sono per il campionato dei comuni. Fondiamo Roma-Lazio, Giorgio De Luca, Napoli-Salernitana e Avellino. Fondiamo tutti insieme. Poi fondiamo Palermo e Catania. Juve-Toro. Juve-Toro, naturalmente. Verona e Chievo. E poi creiamo, non so, Fiorentina, Livorno, Pisa. E facciamo il campionato dei comuni. Dura un anno e poi ci siamo arrivati. Possiamo dire che di tutta l'intervista bellissima di Mino Raiola alla Gazzetta, questa era la parte che, per parafrasare il nostro carissimo Alessandro Milan, la carta costa. Cioè quel colonnino si poteva lui anche c'ha sta fissa, nessuno gliela può levare. Lui ha la fissa che Milan e Inter devono fondersi e giocare con una bella maglia rosso-nerazzurra. Francesco da Roma, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie di avermi tirato fuori dalla panchina. Grazie a lei. Mia panchina. Lei è favorevole alle fusioni, no? Roma-Lazio tutti insieme. Roma-Lazio proprio è una cosa che non si può fare. Perché invece Milan-Inter invece si può fare dall'oggi a domani. Sono problemi loro, dei milanesi. Noi a Roma c'è una grande rivalità, una rivalità soltanto sportiva. Lo so bene. Io chiamo, ho fatto alcune considerazioni sulla nostra Romettina, che sembrava che fosse diventata una grande squadra, invece non è proprio così. Io credo che Garcia l'anno scorso era un francese venuto a Roma con tanta voglia di lavorare, adesso è diventato italiano e forse ancora di più romano. Parla troppo, e i giocatori in campo, io guardi, vado tutte le domeniche allo stadio, il sabato quando gioca la Roma, sono presidente di un club, quindi vado a vedere, i giocatori sono svogliati, non hanno gamba. Se non stanno attenti non finiranno né secondi né terzi, perché la Lazio è agguerrita, il Napoli sta, insomma, non vanno. Senta, io voglio farle sentire una cosa che ha detto oggi Garcia, poi mi dice se è vero che è così e se lei è d'accordo. Io avrebbe avuto piacere a vedere un sostegno al 100% di Mattia Destro, ovviamente non parlo di io, perché io sono stato sempre vicino e sempre dietro di lui, i suoi compagni anche e la società anche. Bisogna solo sapere di chi altro parlo e basta. Sostegno al 100% per un giocatore della Roma, per chi ama la Roma, per chi ama la sua squadra. Sostenere ogni giocatore anche nella difficoltà mi sembra un atteggiamento di tifoso o un atteggiamento obiettivo, perché bisogna solo vedere i numeri di Mattia Destro. Ha fatto una seconda parte di stagione scorsa fantastica. L'avete mandato via voi, insomma, eh? Voi tifosi l'avete mandato via. No, no, no, no, no, no. Allora, diciamo una cosa. Le voci dello stadio che dicono che Mattia sembrava un po' svogliato, sempre ciondolante, e spesso si rimaneva in fuori gioco, ma la colpa non era, sai, non è di Mattia adesso. È tutta la squadra che non va. Un grande campione è grande quando ha il sostegno di tutti i compagni. Ecco perché si chiama squadra. Un uomo da solo non fa una squadra. Un grandissimo campione ha bisogno di gregari, di compagni, di campioni come lui che vengono e diventa grande. Questa è la storia di tutti i grandi campioni, sì, del calcio. Mai nessuno. E poi c'è anche un'altra cosa, che noi abbiamo un grandissimo capitano, che però però fa Totti non si può oscurare. Verissimo. Un grande vicino a Totti. Lo scuro adesso lui però ha pure i suoi annetti, dovrebbe, certo, non dico farsi da parte, però insomma, io mi ricordo Altafini, ho 60, quasi 63 anni, io mi ricordo Altafini, giocava 15 minuti con la Juventus, faceva il suo gol e finiva. E certo, per uno che ha trascorso tutta la sua carriera in una squadra è come un... Ma decide lui, Francesco, Totti decide lui quello che vuol fare, se vuol fare quel ruolo, se vuole giocare titolare, la verità è questa. Sense cose prima diceva, ma se uno è forte non ce n'è, in parte è vero. Però io continuo a pensare che con Totti, che ormai alla sua età praticamente solo quel ruolo può fare, la concorrenza al volere del capitano a Roma è molto difficile. Quindi fare concorrenza al capitano a Roma è anche mediaticamente molto difficile, è difficile dal punto di vista dell'opinione pubblica, eccetera, eccetera. Rocco Massa Carrara, buongiorno. Sì, buongiorno. Io sono torinista da tempi di Meroni, sì. Perciò di cose con la Juve e con i Gobbi non vogliamo avere niente a che fare. Io che ho chiamato, per me Ventura non è adeguato al Torino, perché per una squadra, non so, è più di quantità che di qualità. Poi sposterei, prendere Pazzini in prima punta e sposterei Quagliarella dietro, un po' più indietro, perché ormai Quagliarella non ce la fa più a fare la prima punta. Cosa dici? Sì. E poi un'altra cosa, Cerci lo stava meglio al Torino che al Milan. Chi? Cerci. Per lui, Cerci. Non per il Torino, a parte il Torino, Cerci, lo stava meglio al Torino per lui. Bah, questo non lo so. Credo che se uno esce da una stagione come quella dell'anno scorso, quella di Cerci, è legittimo che provi a fare il salto. Era in fondo all'ultima occasione della carriera e quindi lui ha provato a fare il salto all'Atletico Madrid. Su Pazzini mi risulta che non sia disposto, comunque non abbia molta voglia di andare via in prestito per questi 4-5 mesi. È in scadenza con il Milan. Se qualcuno gli offre un progetto pluriennale con allegato contratto, se ne può parlare anche il Toro, anche non necessariamente la Juventus o un club di primissima fascia. E Pazzini comunque sarebbe un giocatore che sposta gli equilibri a quel livello. Certamente. Poi io continuo a non capire perché i tifosi del Toro non vada più a Genio Ventura. Questa io non la capisco, però insomma, a quelli dell'Inter non piaceva Mazzarri, ai tifosi della Lazio non piace Lotito, è questione di gusti, di estetica, come dicevo prima. Ferrari è sexy, per me è più sexy la McLaren. Ma chi c'è? Franco Piantanida, che vuoi? Ma ciao, buongiorno. Grazie, come andiamo? Molto bene. Gli applausi. Squilli di trombe, come andiamo? Molto bene, ci divertiamo. Chi abbiamo lì? Giovanni, l'ho sentito, Carlo. Giorgio De Luca, Fabio Cantatori, solita compagnia. Arrivo, un attimo. Ambrosini, che arriva, è un attimo. Dimmi, come stai? Volevo... Sì. Mi hanno convocato al volo perché volevo attaccare Mourinho. Dai, vai. No, caro, dimmi di Quadrato, cosa ne pensi tu? La Fiorentina ha fatto benissimo. Ha impaccato il jolly. Ma non si può, ma Mourinho quando si accorgerà che in panchina non ha più Schürrle e Quadrado sarà troppo tardi. Cioè, secondo me è un'operazione che non sta in cielo né in terra, non riesco a capirlo, cioè non riesco a capire cosa serve il Quadrado al Chelsea e non riesco a capire come possa privarsi di un giocatore vero, perché Schürrle è un giocatore vero, Quadrado non lo so. Quadrado lo scopriremo. Evidentemente a Mourinho sarebbe un giocatore con quelle caratteristiche, se l'è andato a prendere. Salah sembra uno buono, quindi mi pare che con buona pace di tutti hanno messo i dollaroni sul tavolo viola e si sono portati a casa a Quadrado. Poi sai che Mourinho è in guerra contro il mondo, adesso gli hanno squalificato Diego Costa per tre giornate, salta la partita col Manchester City. E quindi oggi, credo nel pomeriggio, sono attesi fuochi artificiali di Mourinho, sì, in conferenza stampa. Che già ne ha avuti un po'. Che no? Già ne ha dati. Poi Filippo Maria Ricci prima giustamente faceva notare che Cristiano Ronaldo ne ha combinati tutti i colori, ha preso due giornate. Arda Turan ha tirato una scarpa, un guardaline, è stato ammonito. Diego Costa che ha calpestato una caviglia, tre giornate. È vero. Comunque Mourinho non la fa la conferenza stampa, eh? No, perché non la fa. Non la fa, è lotta col mondo, quindi manda Beppe Baresi. Esatto. Ciao Francone, torna a trovarci. Come sei, ragazzi, la borsa? Baci. Vi abbraccio. Ciao Franco Piantanita, che bella sorpresa. Borsa, poi Claudio da Milano subito dopo. Tutti convocati. No, Giovanni Capuano mi stava dicendo che il mercato si muove. Sì, il mercato si muove, sta chiudendo un'operazione interessante l'Inter con la Sampdoria, che aveva già riscattato Duncan per 3 milioni e prende anche Bonazzoli, che è il centravanti della primavera dell'Inter, sì, aggregato alla prima squadra. L'Inter fa un'operazione per cui lo cede per 7 milioni, in realtà lo cede dal 1 luglio, perché chiuderà la stagione a Milano, anche perché serve per l'Europa League, perché dopo Icardi non c'è nessun'altra prima punta, e poi si tiene il diritto di riacquisto per 3 stagioni, un po' come ha fatto la Juventus con Zaza. Tutto questo serve perché Ausilio mette in bilancio una decina di milioni di plusvalenze e in parte insomma aiuta il bilancio, in parte va poi a fare le ultime operazioni, tra le quali c'è il difensore centrale, e pare che l'Inter stia ragionando se andare a prendere Alexander Dragovic della Dinamo Kiev, dunque prendere un giocatore con un profilo migliore rispetto a Rodolfo o agli altri nomi che erano stati fatti come quinto difensore centrale. Però mi dicevi non potrebbe giocare in Europa League. Sì, essendo della Dinamo Kiev ha già fatto l'Europa League nella prima fase, quindi non potrebbe farla. C'è questa difficoltà per l'Inter che se cerca giocatori di un certo profilo non li può spendere in Europa League, un po' come con Shaqiri e Podolski, solo uno la farà e sarà quasi certamente Shaqiri, o altrimenti si deve abbassare di livello e quindi evidentemente perde un po' senso l'investimento. Claudio, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno a tutti. Niente, volevo intervenire su due argomenti. Uno, naturalmente, la Ferrari. Sì. E confermo di aver visto il furgone rosso sulla Melocorn. C'è? Per Cormal. Si sta muovendo. Leo Turrini, cioè le racconta giuste, sono mica balle quelle. La Ferrari nuova mi piace molto, mi rammarica un po' il rosso e nero perché ultimamente avrei scelto colori diversi, ma fa niente. Non sono particolarmente di moda. In questo momento sono un pochino indietro, ma non ha importanza. Sì. Il secondo argomento è chiaramente il rosso e nero. Sì. Ragazzi, io sono andato a vederlo per anni quando eravamo in B, abbiamo vinto anche una Mitropa, con calma. Io mi immagino Filippo, Pippo, quando i suoi giocatori in campo non corrono, ma ve lo ricordate quando sbagliava un gol, come sbavava sulla bandierina? Cioè provate a immaginarlo che frustrazione ha questo ragazzo. Sì, però tempo. Lui è l'allenatore, se non corrono, cioè un paio di domande bisognerebbe fargliele, no? No. Sì, io credo che però le domande più che a lui, che è inesperto, ma noi milanisti siamo pazienti, lo sapete, bisognerebbe fare la società, stiamo facendo un sacco di arruffate con questo mercato. Adesso sentivo ancora di Okaka. Ma in realtà il problema nostro è passare la metà campo, non c'è nessuno che abbia un piede, sono problemi lì, io la vedo così. Io abbastanza anche, però se cambia modulo, insomma il problema del Milan e anche di Inzaghi è che fino adesso, abbiamo detto molte volte, non si è mai intravisto un piano B. Cioè Inzaghi è partito con questa ricerca della ripartenza, con Menez in quella posizione e da lì grosso modo non si è mai mosso. Ora dovrà un piano B, gioco forza con l'arrivo di Destro, dovrà inventarselo. È chiaro che i problemi sono in mezzo al campo, però non è detto che cambiando modulo e trovando qualcosa di più semplice, di più equilibrato, non si possa quantomeno intravedere il piano B. sono perfettamente d'accordo con la tua analisi, perfetta. Mi rammarica solo una cosa, non possiamo più chiamare Albertini, non credo che venga. Quindi o la società. No, Albertini, magari... Albertini no. No, no, Albertini no, Gattuso no. Gattuso no, Maldini? Maldini no, no. Maldini no. Boban no. Boban la vedo durissima. Boban la vedo dura. Poi? Poi Savicevic che fa il presidente, no, di federazione, non lo so, fare. Magari Savicevic no, non si può questi fare neanche vengono, Savicevic, non no. Vengono, non vengono. Neanche Ambro viene. Renato Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io, tifoso Granata, abituato, sì, a soffrire. No, chiamavo soltanto per dare una chiave di lettura di quello che dicevate prima, che i tifosi del Toro non sono contenti di Ventura. Poi molti tifosi del Toro mi stanno scrivendo messaggi, non è vero, non generalizziamo, Ventura tutta la vita, forza Toro, Ventura non, no, si tocca, ecco, firmato Roberto. Infatti, infatti, no, no. Sono stato a Milano a vedere la partita domenica e mi sembra un giudizio alquanto ingrato nei confronti di Ventura che sta facendo dei miracoli. Ma è chiaro, anche a me. Infatti non lo capisco, ma io non, beh, capisco nemmeno le critiche, non capisco nemmeno, no, fino in fondo, beh, le critiche a Cairo, posso dirlo, no, la verità. Sì, sì. Può dirlo, ma quello che voglio dire io è che certo l'anno scorso giocavamo meglio, era più bello vedere giocare il Toro, sì, l'anno scorso, perché il Toro costruiva, giocava a viso aperto, e quest'anno abbiamo forse giocato con la Juve a viso aperto. Io sono stato a Milano, abbiamo fatto la nostra partita in 11 davanti alla difesa ripartendo in contropiede. C'era un articolo bellissimo domenica sulla Gazzetta, non, sì, so chi l'ha scritto, che spiegava chiaramente che nel momento in cui Ventura non faceva più punti, ha avuto un momento di difficoltà tra ottobre e novembre, gli è bastato togliere il Kadduri, che era uno che gioca di fino, e far entrare Farnerut, che spacca il gioco degli avversari, si limita a fare quello, e il Torino, cambiando una pedina, sì, ha fatto, ma con domenica l'allenatore, sette risultati utili. Ventura fa l'allenatore di calcio con un po' di esperienza, certo, e quindi è capace anche di leggere queste situazioni, cioè secondo me è un pregio, non è un difetto. No, ma poi Giovanni, altrimenti facile, fa Zeman, giochi, cioè, che no, va avanti con le sue idee e, sì, e va piuttosto a sbattere contro un muro. Per il Toro, se hai davanti due che la sbattono dentro ogni volta che la toccano, come era l'anno scorso con Cercia Immobile, è chiaro che ti cambia il giro del fumo, no? Ma ti cambia totalmente. Quest'anno è un'altra storia, ma non mi sembra una dimensione che non si adatta a quello che è il Torino attuale. È ancora in Europa, sta facendo il suo campionato. Non, certamente avrebbe bisogno, se avesse un attaccante di livello, uno che alla Pazzini, uno che davvero riesce a segnare con continuità, vicino a Quagliarella, e allora qualche altro problema si risolverebbe, al di là di Farnerud e di Kadduri. Anche se avesse tirato qualche rigore meglio, perché poi staremmo qui a parlare di una squadra magari con 5-6 punti in più. Senti, domenica facciamo tardi. Alla sera. In Super Bowl 49, the reigning Super Bowl champs take on the winningest team of the last decade. In Arizona, the NFC champion Seattle Seahawks meet the AFC champion New England Patriots. That needs to be said today. This is where it all counts. This is why we're here. This is why each one of us are here. Huge opportunity, man. We work for it every day. Just dominate. Let's be focused. Let's play for each other. Let's play together. You know where we want to go. Hawks on three. Hawks on three. One, two, three. Hawks. Domenica sera, dopo il programma, tanto caffè, Giovanni. Noi finiamo alle 7, però bisogna tirare oltre mezzanotte per vedere il Super Bowl da Phoenix. Insieme a Cruciani, massimo esperto vivente di tutte le cose che riguardano il football. Non ti piace, non lo guardi? No, non è in cima alle mie preferenze. Ma Super Bowl è il Super Bowl. Al fascino, però io non arrivo oltre le 2 di solito. Cioè, mi addormento agli inni. Agli inni. Simone Sandri, buongiorno. Buon pomeriggio. A noi affascina. L'inno chi lo canta lo sappiamo, dimmelo tu però. Hit My Medell, che è quella che è la famosa, che ha cantato che è diventato veramente un mito, il mito di Frozen, la famosa canzone Let It Go, e lo canterà lei, che nell'ultimo anno forse è stata una delle cantanti più sottovalutate ma più popolari, perché è una canzone che piace tantissimo ai bambini, ma non solo. Qui. E poi ci fa lo spettacolo di Cristina Aguilera nell'intervallo, molto interessante. Senti, Simone, poi in mezzo giocano anche, no? In mezzo giocano anche, c'è Tom Brady che è a caccia del terzo, mi pare, del terzo titolo. No, del suo quarto titolo. Del quarto titolo. Al terzo Super Bowl arriva, rischia di vincere il quarto titolo, vedremo cosa succede, però la sua legacy diventerebbe forse il più grande quarto della storia dello sport. Con buona pace di Giselle Bündchen, una delle coppie più gettonate glamour dello sport mondiale, New England Patriots leggermente favoriti. Sì, leggermente favoriti, anche se dobbiamo dire che tutto questo questo cancan che c'è stato attorno a questo Deflategate, che è stato questa polemica sul fatto che c'erano nella finale delle UFC questi palloni sgonfi almeno per il primo tempo del 20%. Ma si è calmata la bufera? Sì, adesso negli ultimi due giorni sì, ma fino all'altro ieri si è parlato praticamente solo di quello. Per cui è stato veramente una settimana molto strana di avvicinamento al Super Bowl. Solitamente si finalizzano tanti personaggi, si parla anche di tanti aspetti tecnici, invece si è parlato tantissimo di questa polemica, di come magari possa influire sulla preparazione alla partita da parte di una squadra molto esperta, però come New England. Alla fine credo che non, sicuramente nella mente dei giocatori non ci sarà questo. Si sono italianizzati, poi ci manca la moviola e le faccia tutta, però lì c'è la moviola, quindi c'è la moviola. No, ma è stata molto interessante questa storia, con praticamente i 12 palloni consegnati agli arbitri. Ogni squadra consegna i 12 palloni che userà in partita, consegna questi palloni che vengono timbrati, pesati, marchiati, eccetera eccetera, e quelli dei New England Patriots nella semifinale con gli Indiana Colts risultavano leggermente sgonfi, questo perché per favorire lanciatori e ricevitori. Ed è stato un tormentone che è andato avanti per giorni e giorni e giorni e giorni, ed è finito forse fino adesso. Non so se questo possa aver magari tolto un po' di pressione. Non è mai stata in discussione la partecipazione dei New England Patriots al Super Bowl, naturalmente, ma questo ha creato maggiore pressione o ne ha tolta un po' dai giocatori sul campo? Ma più che altro il problema è quello della legacy, di come verranno ricordati i Patriots, perché ricordiamo che loro sono recidivi, hanno avuto questo Spygate, per cui hanno avuto un'altra polemica sul fatto che l'avessero firmato allenamenti chiusi di altre squadre avversarie nel 2007, e anche in teoria in maniera precedente, però sono stati puniti solo per il 2007. Per cui questa idea che loro sono sempre vicini alla linea del bene e il male e non hanno problemi a superarla, e soprattutto lo allenatore Belichick, si è parlato molto di questa cosa qua, di quanto potrebbe essere, di come potrebbe essere ricordati anche in caso di vittoria i Patriots, per cui credo che non abbia cambiato nulla sulla preparazione della squadra, una partita assolutamente nel sentiranno, potrebbero risentire magari un secondo tempo nei commenti, magari a fine carriera di Tom Brady, di come potrebbe essere ricordata questa squadra. Certo. Però anche secondo me in campo non vedremo assolutamente effetti di questa settimana di polemica. Simone, un'ultima cosa al volo: l'America imparziale con chi sta? È una bella domanda, perché da un lato ci sono sicuramente questo Deflategate non ha fatto altro che far sì che New England venga definita la squadra probabilmente meno apprezzata, un po' più odiata adesso d'America. Già non era molto simpatica al di fuori del New England, al di fuori di Boston, per un po' per l'atteggiamento un po' arrogante di Belichick, e per Tom Brady, il Golden Boy, che è sicuramente uno dei giocatori più straordinari di questa storia dello sport, ma che ha questo potere un po' di dividere, come le grandi squadre, come gli Yankees, come i Chicago Bulls di Michael Jordan, i Lakers di Kobe e Shaq. Per cui direi che la stragrande maggioranza dell'America farà il tifo per Seattle. Io comunque sono convinto che alla fine la portano a casa New England con ancora Tom Brady, che mostrerà ancora una volta di essere veramente il migliore di sempre. Grazie Simone. Grazie. Grazie Simone Sandri da New York. Ma tutti convocati. A poco al momento cui siete particolarmente affezionati, quello della schedina, del pronosticone. Cristian da Pisa, buongiorno. Posso darti un aggiornamento? Certo. Pochi minuti fa Alfredo Pedullà, grande firma di calciomercato, ha twittato: Cassano Inter contatto. Contatto. Ma appuntamento questa è una voce, a lunedì, con possibile incontro a Milano. Cassano aspetta solo l'Inter, non valuta nessun'altra proposta. Questa è una voce che comunque già l'hai già sentita. Cioè sì, non già sentita. Mancini ha detto che lui Cassano non gli serve. Io ho qualche perplessità, ce l'ho anch'io. però Pedulla di solito ci prende. Sì. E quindi lunedì incontro a Milano, presumo, tra Cassano e l'Inter. Non credi che Cassano potrà essere il giocatore di riparazione per diverse squadre, magari la stessa Juventus, che non riusciranno all'ultimo giorno di mercato a prendere un giocatore, quindi magari il giorno potrebbe anche essere martedì. Ricordiamo che Cassano può essere Cassano può fare quello che vuole, non ha problemi fino a marzo, essendo svincolato. Io credo che se qualcuno vuole prendere Cassano di questi club qui, gli conviene fare in fretta, perché comunque Cassano in vacanza poi è un giocatore che ha dei tempi per tornare pienamente. No, ma lui l'ha detto, io poi vado in vacanza. La Juve ci ha pensato, ho l'impressione che abbia scelto un profilo diverso in questo momento, sempre se riuscirà ad avere via libera dall'Inter per prendere Osvaldo. L'Inter, ecco, a proposito del discorso Europa League, Cassano è un giocatore che l'Europa League potrebbe farla. Sì. Cristian, buongiorno. Buongiorno a lei. Una domanda veloce. Dica. Leggendo sui blog, se non ho interpretato male, se non sono false nuove, Duncan, che è un giocatore dell'Inter in prestito alla Sampdoria, e Bonazzoli, leggevo che Duncan potrebbe essere lasciato alla Sampdoria e Bonazzoli a luglio alla Sampdoria per 7 milioni con riacquisto per i prossimi 3 anni. Sì. Io mi chiedo una cosa, l'Inter tiene giocatori come Icardi, molto bravo ma non partecipante all'azione, per qualche Palacio mese, di 32 anni, giocatore iper bravo ma ormai sull'onda del tramonto, e poi andiamo a comprare giocatori iper sconosciuti lasciando a casa magari dei promettenti come è stato fatto con Destro. Adesso vediamo la fine che hanno fatto. Forse il Milan è affezionato ai giocatori dell'Inter, prima con Balotelli, la lista è lunghissima, ci ha provato anche con Osvaldo, ma l'Inter ha detto a tutti ma non al Milan. Però Bonazzoli non è un giocatore pronto per San Siro, non è pronto per l'Inter, anzi io credo che per paradosso queste nuove formule, cioè quella di darti il giocatore vincolandolo a un diritto di recompra, come dicono in Spagna, di riacquisto, sia una formula che stimola anche chi compra, in questo caso la Sampdoria, poi a investire tecnicamente per la crescita del giocatore. Quindi Bonazzoli andrà a ritagliarsi un ruolo nella Samp, che poi è una società importante. Se esplode l'Inter non lo ha perso, mi sembra una formula abbastanza intelligente. Poi se noi vogliamo inseguire il mito del giovane della cantera pronto ad entrare, possiamo anche farlo. Io ho l'impressione che Bonazzoli l'anno prossimo nell'Inter sarebbe destinato a giocare i ritagli di tempo, e quindi fondamentalmente a buttare via un anno. Allora cominciamo con i pronostici, anche perché il tempo scorre veloce. Cristian da Pisa, mi dia un paio di segni. Genoa-Fiorentina come finisce? Genoa-Fiorentina 1. Capuano? Genoa-Fiorentina X. Empoli-Roma, Cristian. No, Roma-Empoli, Roma-Empoli, certamente. Roma-Empoli, uno tassativo. Dai, uno fisso. Uno fisso. Siete sicuri? Uno fisso. Sicuro. Se non vince adesso, la Roma è finita. No, ma anche perché se non vince, noi chiudiamo la trasmissione. Abbiamo finito di farla. Di cosa parliamo da qui a metà maggio? Sassuolo-Inter. Io auguro il 2, ma non lo so con l'Inter di questi tempi. Guarda, il presidente, quello del piano di sopra, non ha parlato, perché di solito dice: ah, Sassuolo-Inter, io l'unica cosa che chiedo alla stagione del Sassuolo è di battere l'Inter. E poi finisce 7-0 per l'Inter. Siccome non ha parlato, potrebbe scapparci l'X. Potrebbe scapparci. Speriamo di no. Cagliari-Atalanta. Atalanta-Cagliari. Sì, Atalanta-Cagliari, io le leggo al contrario, le leggo alla rovescia perché mi gira così. Perché va così. Quindi vince il Cagliari. No, vince l'Atalanta. Qui c'è uno scontro di pronostico tra Cristian da Pisa e Giovanni Capuano. Cesena-Lazio, vorrei leggere Lazio-Cesena, ma in realtà è Cesena-Lazio. Cristian. Pronosticamente sarebbe il 2, augurandoci nell'1. Pronosticamente 2, dai. A due tutta la vita, Cesena. È già tutta la vita. Insomma, il Cesena e il Parma io li vedo già da non più di questa vita, di questa Serie A. Chievo Napoli. Attenzione, Chievo Napoli. X. Cristian 1. 1. vince il Chievo. Beh, ma il Chievo è la bestia nera del Napoli, eh? Sì, ho capito, però il Napoli deve decidersi anche a capire dove vuole andare. Cioè, una volta che prende l'abbrivio, Giorgio De Luca fa segni scaramantici irripetibili. E ma possiamo fare l'elenco delle volte in cui il Chievo ha fatto punti col Napoli? Adesso il Napoli questa partita non la può sbagliare. Non la può sbagliare a costo davvero di ricomplicarsi di nuovo la vita nella corsa al terzo posto, anche perché secondo me la Lazio Cesena vince e quindi è una concorrente seria. La Sampdoria non ha nessuna intenzione di mollare, che San Ferrero si arrabbia come una bestia, quindi il Napoli, se vuole davvero dare a brivio a Verona, deve vincere, io dico 2. Comunque, Palermo-Verona, Cristian 1-1. Torino-Sampdoria, secondo me 2. Pareggiamo. Questa X è brutta, X, questa è brutta X. Per... X. X va bene. E se giochi tu, X lo stesso. X. X. Ma Udinese Juventus. Augurandomi l'uno. Si augura. Facciamo due, va. È più facile l'X, se non il 2. O anche il 2. No, 2 fisso, Udinese Juventus. Mica fa. Udinese è tornata a riannodare i fili con la vittoria ad Empoli. 2 fisso. Vabbè, voi se dite 2 fisso. E poi a chiudere la giornata, Milan Parma. Io te lo dico domenica. No, dici adesso che domenica. No, te lo dico domenica. Ma perché domenica? Dillo subito. Milan Parma. Ma pure 20 minuti che diciamo. Cristian. Sì, Milan Parma. Sicuramente. Uno. Uno sicuramente. Uno. Due. Tre. Ha ragione, presidente. Comunque, domenica gli chiediamo conto. Grazie, Cristian. Grazie anche per la sua schedina. Io, Milan Parma, uno poi fisso, lui magari voleva dire altro. Così. No, beh, non lo so, ma tanto abbiamo finito il tempo, Giovanni. No, ci resta il tempo di ovviamente di darvi appuntamento domenica dalle 5 alle 7. Siamo qui ad aspettarvi. Io, Giovanni Capuano, e per Luigi Pardo e tutta la brigata. Vi ricordo, da lunedì, ragazzi, da lunedì c'è il nostro nuovo grande acquisto, Enrico Ruggeri, cui ci diamo volentieri l'ultima mezz'ora, quindi siete tutti convocati e sarete sempre tutti convocati ogni giorno dalle 14 alle 15.30. Grazie Giovanni Capuano, Giorgio De Luca, Fabio Cantadori, Daniele Buonamici. Ciao a tutti, a domenica.